Italia in controluce. È il pomeriggio di Radio 24 e vi parla Daniele Biacchessi. State ascoltando la seconda edizione di Italia in controluce, il programma che indaga tutti i giorni sulla società italiana. Il reportage di oggi è incentrato sul mercato della penicillina in Italia. Il racconto di Barbara D'Amico. Quanto costava prima la penicillina per la sua patologia? 3,60 euro. E invece adesso costa? 24 euro. E cosa pensa di questo cambiamento di prezzo? Che è troppo ed è ingiusto. Può dire per quale patologia deve curarsi con la penicillina? Sì, tonsillite cronica. Lei cosa pensa invece del fatto che il prezzo sia aumentato in questo modo? Che è sbagliato, perché è una medicina importante e quindi non dovrebbe avere un prezzo così alto. La penicillina è troppo costosa. Sì, proprio l'antibiotico scoperto per caso da Alexander Fleming nel 1928, antibiotico potente contro le infezioni e definito ancora oggi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come farmaco essenziale. In Italia però, dal maggio 2011, una confezione di penicillina, anzi per essere precisi di benzilpenicillina benzatinica, è passata dai 2 ai 24 euro. A lamentarsi del fortissimo aumento di prezzo non sono solo i pazienti, ma anche i medici, come Pompeo D'Onofrio, ex direttore della clinica dermatologica dell'Università Federico II di Napoli e tra i maggiori esperti in Italia di infezioni a trasmissione sessuale, che si curano appunto con la penicillina. Nella situazione attuale in cui ci sono tutte le aziende che fanno generici a costi bassi, com'è possibile che non ci sia un'azienda che produca lo stesso farmaco ad un prezzo più accettabile? Un farmaco la cui scoperta risale a 65 anni fa da Fleming, quindi non è un farmaco nuovo su cui ci sono state le spese per poterlo sperimentare o altro. In Italia la benzilpenicillina è distribuita dalla Biofarma. Fino a poco tempo fa l'azienda farmaceutica produceva una penicillina in flacone, contenente la polvere del principio attivo ricoperta da un eccipiente che ne consentiva la sospensione in acqua. La penicillina infatti deve essere iniettabile in forma liquida. Dal 2008 però il fornitore europeo Sandoz, società del gruppo farmaceutico Novartis, da cui la Biofarma acquistava le componenti base, smette di produrre proprio la polvere del principio attivo con l'eccipiente, senza di cui la penicillina è inutilizzabile. La Biofarma decide allora di produrre da sé la benzilpenicillina, escogitando un modo per mantenere il principio attivo in sospensione. Un prodotto molto più costoso del vecchio flacone, come spiega la stessa vicepresidente della Biofarma, Lidia Strappaveccia. Il costo di un processo produttivo di una siringa preriempita è completamente diverso dal costo del processo produttivo di un flacone. Ora, ovviamente per chi non è del mestiere è difficile poterlo spiegare, ma una siringa preriempita sterile viene fatta in un reparto nuovo. Quindi vuol dire che noi abbiamo sostenuto un investimento notevole per fare un reparto nuovo, appunto per non far mancare il prodotto sul mercato. In Italia un'azienda farmaceutica come la Biofarma può vendere un medicinale solo dopo aver ottenuto l'ok dell'AIFA. L'Agenzia Italiana del Farmaco è l'ente governativo che ha tra i vari poteri quello di controllare i prezzi dei farmaci. È l'AIFA infatti che decide se un medicinale può essere gratuito o meno per il cittadino. Per farlo classifica tali medicinali come medicinali di classe A, quelli essenziali pagati dal Sistema Sanitario Nazionale, e medicinali di classe C, quelli non essenziali, quindi a totale carico del paziente. Nel momento in cui io all'AIFA ho chiesto, dice, com'è possibile questi pazienti spendere 24 euro? Dice no, possono andare in ospedale e farla in ospedale. Però il paziente non è che va in ospedale e gli fanno la fiala gratis. Per avere la fiala dovrebbe ricoverarsi, perché la possono fare soltanto in ricovero. Allora, per fare la fiala un paziente dovrebbe ricoverarsi con tutte le spese sul sistema sanitario del ricovero. Nel 2008 l'AIFA declassa la nuova benzilpenicillina prodotta dalla Biofarma dalla fascia A alla fascia C. Motivo? Costi troppo alti per la sua produzione, costi che il sistema sanitario nazionale non può permettersi. Il prezzo di un farmaco dipende da vari fattori. Uno di questi è come e a quali condizioni le aziende farmaceutiche debbano reperire le componenti base, come la polvere del principio attivo della benzilpenicillina. Il parere di Giovanni Di Perri, infettivologo all'ospedale Amedeo di Savoia di Torino. Può non essere più conveniente per una ditta che produce farmaci produrre appunto la penicillina. Ci sono vari modi di cariare questo. La sostanza pura si dovrebbe poter trovare in giro. In Africa è pieno di farmacie, anche se vuole un po' rurali, che però fabbricano dei prodotti a base di penicillina G, prodotti che poi nell'uso clinico risultano validi. Quindi evidentemente l'approvvigionamento di polvere pura deve essere possibile da qualche lato. Il mio ospedale, dopo qualche sofferenza, adesso si rifornisce, mi risulta, da una ditta che anziché farlo pagare mezzo euro lo fa pagare 5 euro, è un prodotto leggermente migliorato come confezione. Anche se in teoria sarebbe semplice reperire il principio attivo, in Europa la benzilpenicillina per uso umano può essere messa in commercio solo da aziende che abbiano una autorizzazione europea. La Biofarma si approvvigiona dalla Sandoz proprio perché questo fornitore è l'unico autorizzato dalla UE a fornire il principio attivo. Eppure, secondo medici e pazienti, i costi restano sempre troppo alti per un medicinale su cui non grava il brevetto. Guardi, per quanto riguarda il brevetto si parla di una cosa che è scaduta tantissimi anni fa, perché la benzilpenicillina benzedina è stata una delle prime sintesi che fece Fleming, quindi parliamo degli anni 30-40, per cui qui non c'era problema di brevetto. Noi l'abbiamo registrata quando abbiamo aperto l'attività della Biofarma, che è un'azienda che produce antibiotici beta-lattamici, cioè penicilline e cefalosporine, e quindi l'abbiamo registrata circa 15 anni fa a nostro nome. Insomma, il prezzo della penicillina è cresciuto perché sarebbe più complicato produrre da soli un farmaco già iniettabile, nonostante sia venuto meno un passaggio nella catena di distribuzione, quello del fornitore europeo. L'AIFA ha ritenuto quindi di non doversi accollare i costi di tutto ciò. Eppure, in casi particolari, l'AIFA potrebbe far produrre il farmaco direttamente allo Stato, come spiega Tonino Aceti, responsabile del coordinamento associazioni malati cronici presso il Tribunale del Malato. Nel caso dell'irreperibilità del farmaco, però, mi preme sottolineare che abbiamo la possibilità, lo Stato ha la possibilità di farlo produrre quel farmaco attraverso le cosiddette farmacie militari. Far produrre la penicillina allo Stato non è possibile. È un farmaco il cui principio attivo è ancora reperibile. Eppure dal 2008 ad oggi ne sono state distribuite in Italia solo 300.000 dosi, insufficienti, secondo il dottor Pompeo D'Onofrio, a combattere malattie pericolosissime come la sifilide. Io mi sono sempre interessato di pazienti e continuo a interessarmi di pazienti con l'AIDS. E un terzo dei pazienti con l'AIDS è positivo per la sifilide, ce l'ha o l'ha avuta? Uh-huh. E si parla tanto, adesso c'è stato il 1° dicembre la giornata mondiale per l'AIDS, si parla tanto di AIDS, ma poi si sottovaluta il fatto che nel momento in cui un paziente è affetto dalla sifilide e ha lesioni nelle zone genitali, che poi sono lesioni erosive ulcerative, sono lesioni aperte, diventa un'autostrada per il virus dell'HIV di poter accedere. Proprio in queste settimane l'Agenzia Italiana del Farmaco e la Biofarma stanno raggiungendo un nuovo accordo per far sì che la penicillina sia fruibile per tutti a un costo meno oneroso e consono all'utilizzo di una medicina ancora vitale. Questa puntata è in podcast su radio24.it, avete molte possibilità per comunicare con noi, usate Facebook, pagina e gruppo Radio 24 Italia in Controluce, Twitter, il blog sul sito della radio, la mail controluce radio24.it, domani una nuova puntata, nuove inchieste, nuovi reportage.